Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Mebius è qui, ore 21, ben sabato. Ben trovato Federico, ben trovati agli ascoltatori. Ciao Chiara. Ciao ciao. In un certo senso restiamo sempre in un ambito culinario. Cucinario, perché all'inizio parliamo di sale, ma di un banco, di uno strato salino gigante che è sul fondo del nostro mar Mediterraneo. E poi una cappa prodigiosa. Sì, sempre prodigiosa, innovativa, che non sembra una cappa, no, insomma. Assolutamente. E poi stiamo sempre lì, tra i fornelli. Con un stranissimo e mi pare eccezionale come invenzione, carta d'alluminio. È difficile da spiegare perché non c'è. No, esatto. È un brevetto. Va bene, partiamo. Oh santo cielo, ma se si scioglie tutto? Forse potrebbe in qualche modo risolvere il problema della desalinizzazione del Mediterraneo, non si sa. Insomma, quello di cui vogliamo parlarvi stasera è un gigante salino, uno strato grosso di salgemma, che è proprio il sale, insomma, e di altri minerali, di altri sali, che sta nel nostro Mediterraneo. Si è appena conclusa da pochissimi giorni un simposio internazionale, perché sta per partire questo progetto che appunto andrà a studiare, a capire che cosa sta avvenendo nel nostro Mediterraneo e capire com'è composto questo strato. Ne parliamo con il coordinatore dello studio, il progetto si chiama MedSalt e qui con noi c'è Angelo Camerlenghi. Buonasera. Buonasera. Lei è direttore della sezione di geofisica dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale di Trieste ed è a capo, insomma, di questo progetto che sta per partire. Forse prima di parlare del progetto dobbiamo capire che cos'è questo strato di salgemma che sappiamo che c'è da un bel po' di anni. Sì, sì, non si tratta di una scoperta dell'esistenza di questo strato di salgemma, anzi questo strato di salgemma rappresenta una delle controversie geologiche sul Mediterraneo più lunghe della storia, perché si è capito della sua esistenza nel 1970 con una perforazione scientifica di un grande progetto che dura fino adesso e che poi vorremmo riportare nel Mediterraneo per perforare questo strato di sale, però sulla genesi e la deposizione di questo sale ci sono varie teorie e quindi diciamo che è dal 1970 che la comunità scientifica italiana, ma non solo, si interroga. È impegnata sullo studio dell'origine di questo strato che è dovuto a un evento climatico probabilmente associato allo spostamento dei continenti molto molto particolare. Dov'è che possiamo più o meno identificarlo, localizzarlo? Sì, cioè è ovunque, non è ovunque. Quasi ovunque, lo troviamo sotto le pianure abissali di tutto il Mediterraneo, da Gibilterra o quasi, diciamo manca nel mare di Albor, anche quel piccolo mare proprio all'interno di Gibilterra, e poi ricopre tutte le pianure abissali del Mediterraneo occidentale fino alla Sardegna, poi ne troviamo poco nel Tirreno, non c'è nel canale di Sicilia ed è invece estesissimo nello Ionio fino al bacino di Levante, quindi le coste Israele, Libano, così, ed ha uno spessore fino a 3, anche 4 chilometri, parliamo di chilometri di spessore di sale. Ma spessore. Che a profondità si trova però? Le pianure abissali sono a 2800 metri esatti in tutto il Mediterraneo occidentale, nel Mediterraneo orientale invece sono un po' più profonde, vanno sui 4000 metri di acqua. Aspetti, si fermi un attimo, se lei dice che è a 2008 ma sono spessori di 2005 vuol dire che gli camminiamo sopra, cioè è molto alto. No, sono spessori al di sotto del fondale. Cioè ecco qua. Quindi sarebbe molto più profondo il nostro Mediterraneo. Abbiamo capito. Ecco, però perché si parla di crisi di salinità del Mediterraneo se invece c'è tutta questa riserva di sale? Forse perché si è accumulato tutto lì. Ma se è giù la pressione lo tiene giù. Sì, chiaro. chiaro, il sale sta giù perché ha una densità che non è molto elevata, è coperto da uno strato di argille e sabbie che lo separano dall'acqua marina attuale. Questo strato di argille e sabbie può avere anche un chilometro di spessore, quindi vuol dire che la base del sale, stiamo parlando di anche 5 chilometri sotto il fondale, che può essere a 4.000 metri, quindi dalla superficie del mare si parla. Sarebbe bellissimo capire come l'avete scovato, perché... Ecco, cioè... esatto, adesso glielo spiego. La crisi di salinità, comunque, sì, intende dire questo, che circa 5 milioni e mezzo di anni fa, più vicino a 6 milioni di anni fa, si è chiusa la comunicazione di acqua marina tra l'Atlantico e il Mediterraneo, in quello che allora era lo Stretto di Gibilterra, che non era proprio così, ma era simile. E quindi, come a tuttora, evapora più acqua dal Mediterraneo di quanta ne arrivi per precipitazioni o porto fluviale. E quindi il livello del mare si è abbassato un po', o addirittura molto, alcune teorie dicono 1500-2000 metri, si è depositato questo sale assieme anche a dei gessi, ma con apporto comunque graduale di acqua, come avviene nelle saline artificiali create dall'uomo, in cui c'è un graduale piccolo apporto d'acqua che evapora, deposita il sale, altra acqua evapora, deposita il sale, a creare questo deposito enorme, tanto che viene chiamato gigante salino. Allora, intanto come l'avete scovato? E poi adesso dobbiamo capire che cosa andrete a vedere, che cosa andrete a studiare. E anche però come si è formato. Il sale è disciolto nell'acqua marina, che ha un 35 per mille, quindi 35 grammi per chilo di acqua marina, di sali. La cosa importante è che tutto questo sale che si è accumulato è stato sottratto all'acqua globale, quindi circa un 5-6% della salinità globale è stata sottratta agli oceani per essere depositata nel Mediterraneo, quindi con un impatto anche sulla temperatura, la circolazione oceanica, il punto di congelamento nelle aree polari. È tutto collegato, chiaramente. Assolutamente, è un evento di portata globale ed è questo il motivo per cui lo stiamo studiando. Allora, avete fatto un buco e avete scoperto il sale? Prima di fare il buco si fanno delle prospezioni geofisiche, l'analogo è la radiologia medica. Prima di intervenire il chirurgo deve vedere cosa c'è sotto. Noi facciamo delle... Noi tutti i colleghi e anche le industrie che poi cercano le risorse minerarie fanno delle prospezioni geofisiche che danno un'immagine tipo radiologica del fondale anche a chilometri di profondità, e lì si vede bene il livello di sale perché ha delle caratteristiche particolari, e data la sua densità il sale si muove molto, sempre con tempi geologici, ma si muove, forma dei cosiddetti diapiri, cioè tende a risalire verso la superficie. A volte questi diapiri di sale arrivano sul fondale e incominciano poi a sciogliersi, quindi a rilasciare il sale nell'acqua marina. In questo modo noi lo tracciamo, lo mappiamo, e adesso siamo pronti per perforare, perché fino adesso la perforazione scientifica l'ha toccato proprio nei primi metri superficiali, ha visto che c'è, quindi ha verificato l'ipotesi del geofisico che diceva che c'era su questo sale, ma per motivi di sicurezza, nei tempi andati con le tecnologie primordiali, non veniva dato il permesso di perforarlo. Non era stato toccato. Esatto, per evitare che magari fluidi in sovrappressione o eventuali sacche di idrocarburi non voluti, perché noi non cerchiamo idrocarburi ma potrebbero esserci, venissero in superficie. Adesso il programma ha delle piattaforme di perforazione che possono garantire la sicurezza, e quindi noi ci stiamo riprovando, diciamo 50 anni dopo. Insomma, sta iniziando un progetto piuttosto grosso, sostanzioso. Brevissimo, in conclusione, si pensa di sfruttarlo questa riserva di sale, appunto, come diceva, ci sono alcune aziende che hanno investito appunto sul progetto? Le aziende sono interessate, non hanno ancora investito. Noi non cerchiamo risorse, noi cerchiamo la vita, la microbiologia associata a questi sali, la deformazione di questi sali che può creare dei fenomeni di scivolamento dei fondali, quindi impatto sulle strutture, che siano verdotti, piattaforme, la parte di pericolosità, l'evoluzione climatica della Terra. Le industrie sono sono interessate perché in alcuni casi il sale può intrappolare riserve idrocarburi. E in effetti, okay, tutta la nostra ricerca è lontana dagli idrocarburi. Chiaro. L'industria ci, è chiaro. Ci tiene sott'occhio. Diciamo. Va bene, abbiamo capito. Quindi ci riaggiorneremo. Intanto buon lavoro, buona ricerca davvero per i prossimi mesi. Grazie. Le voilà, siamo arrivati al traffico. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. In questa parte della trasmissione Mebius si sposta in cucina. Cucina, vedrete che parleremo totalmente un po' di elettrodomestici e partiamo dalla cappa. Ecco, immaginatevi la cappa. Ecco, ora ve la dimenticate e immaginate invece la cappa fatta come fosse un monitor di un computer. Grosso modo, forse l'ho detto un po' male, però un pochino. Tanto, ecco, un monitor touch, tra l'altro. Esatto, un enorme tablet. E qui con noi Luca Colciago. Buonasera Colciago. Buonasera a voi. Direttore della ricerca e sviluppo della Faber. La Faber è un'azienda che per gli addetti ai lavori magari è notoriamente leader nel campo delle cappe da cucina da tanto tempo anche, no? Sì, la Faber ha inventato la cappa da cucina così come la conosciamo oggi, non quella che avete visto voi, nel 1955. Va bene. Scusi, l'abbiamo un po' banalizzata, però immaginiamoci un enorme schermo, ecco, touch. Però adesso lei ci deve spiegare, insomma, quali sono le potenzialità, che informazioni dà, cos'è possibile fare con questa cappa. Intanto aspira, mi pare. Beh, aspirare aspira, no? Sì, esatto, questa è la funzione di base della cappa e continua ad avere questa funzione che tra l'altro è stata portata, diciamo, al massimo dal punto di vista delle prestazioni. Però sul piano cottura è verticale, no? Esatto, è completamente verticale come un quadro. Oh, dunque, la cappa è vero o no che può contenere, per esempio, perché siamo di fronte a un computer, una marea infinita di ricette? Sì, sicuramente, essendo un computer con monitor, può gestire il collegamento a siti che rendono disponibili delle ricette. La cosa particolare è che la cappa è disposta sempre sopra il piano cottura, quindi è nella posizione ideale per poter rendere disponibili queste ricette a chi sta cucinando. Quindi diciamo che ha la funzione di monitor, quindi è una cappa connessa anche, quindi ha la possibilità di andare su internet, salvare le nostre ricette preferite, i nostri siti preferiti e quindi darci questo tipo di informazione, ma non fa solo questo. No, no, no, assolutamente. Questa è diciamo una funzione di visualizzazione di contenuti già disponibili. Ma sempre per lo stesso motivo, sempre perché questa cappa è disposta sopra il piano cottura, ha anche la possibilità di rilevare tramite degli appositi sensori tante informazioni relative alla cottura, alla qualità dell'aria che viene generata, diciamo, da questa cottura, rendendo queste informazioni disponibili sia per visualizzazione che per elaborazione. Ecco, quando lei dice che può monitorare per esempio quattro fuochi sui quali ci possono essere quattro pietanze diverse, vuol dire che dice qualcosa su come stanno andando le cotture? Abbiamo implementato il rilevamento della temperatura solo in una zona, ma diciamo che è l'evoluzione futura di questo concetto sicuramente. Però che riconosce in qualche modo la pietanza o va impostata, insomma adesso ce lo spiega, di quello che noi stiamo cucinando. Facciamo un esempio, stiamo preparando il pollo con i peperoni, più o meno ha un tempo di cottura e in qualche modo la cappa si rende intelligente, ci fa capire quando può essere cotto, quando la preparazione è pronta? Sì. Avendo un legame con la ricetta, quindi avendo una ricetta impostata che dice che il pollo con i peperoni va cotto per un'ora alla temperatura di 200 gradi, è possibile rilevare la temperatura all'interno della pentola e tramite un feedback, visto che la cappa è connessa, comunicare a un piano elettrico di regolare la temperatura di cottura nel modo richiesto dalla ricetta. Ah, quindi la cappa in qualche modo comunica anche col piano, cos'è, il piano a induzione? Sì, ok. Sì, quindi comunica con la cappa. Poi, esatto. E adesso diciamo che ci ascolta di andare al blog della nostra trasmissione dove c'è un video e quindi si vede come fate. Su questo monitor appaiono un sacco di numerini. Cosa sono? Appaiono le informazioni relative appunto alla temperatura, alla qualità dell'aria, quindi una serie di parametri che indicano la bontà quanto l'aria in cucina è inquinata in quel momento, la luminosità dell'ambiente circostante, una serie di parametri che possono essere utili a chi cucina per decidere come operare meglio, o possono essere comunque utilizzati dalla cappa per automatizzare la sua funzione di aspirazione e quindi di pulizia dell'aria. Ecco, sull'aspirazione forse dovremmo dire una cosa, nel senso che diciamo le cappe più tradizionali hanno la canna fumaria, quindi questo tubo che va all'esterno. Le cappe un pochino più moderne, e probabilmente anche questa, non ha bisogno di quel antiestetico tubo. Sì, esatto. Noi chiamiamo quel tipo di cappe filtranti, in quanto hanno installato all'interno un filtro che tratta l'aria raccolta dalla cottura e ne elimina quelli che sono gli agenti inquinanti, tipo la frittura, la cottura del cavolfiore, purifica l'aria ma ne elimina anche gli odori. Questa cappa qui può diventare anche uno strumento che è collegato ad altre funzioni della casa, domotiche che io lì, contatori, televisori, luci. Una centralina intelligente. Esatto, sì, noi ci immaginiamo proprio che questo diventi l'hub di casa. Questa cappa è connessa tramite wifi ad internet e utilizza dei protocolli open, per cui virtualmente possiamo collegarci a qualsiasi tipo di dispositivo, sia un elettrodomestico, ma anche tutti questi smart device che esistono attualmente. Senta, siamo arrivati alla comunità dei capponi, cioè questa cappa si basa su un sistema molto aperto. E quindi se uno la in qualunque posto del mondo trova una particolare variazione che può essere introdotta nel software della cappa, può essere presa, cioè c'è una comunità di utilizzatori della cappa, appunto i capponi, che possono quando dici cappone mi viene in mente un'altra roba. Volatile natalizio che però, però è in tema, no? In tema cultura, esatto. Ci siamo, no? È così. Esatto, questa è un po' la particolarità che abbiamo voluto inserire, è l'esperimento che stiamo facendo. Noi abbiamo voluto aggiungere a una cappa tradizionale, ci abbiamo installato il monitor, la connessione e tutto quanto, un'interfaccia open source. Quindi la possibilità che un utente terzo, ovviamente deve essere un utente particolarmente avanzato perché deve saper programmare, possa programmare delle funzioni aggiuntive su questa cappa. E quindi implementare le applicazioni di fatto. Le mette a disposizione. Esatto, esatto. E la piattaforma che usate è Arduino? Esatto, ok, quindi sappiamo come funziona, insomma, gli smanettoni all'ascolto sanno di che cosa stiamo parlando. Però qui non si uscirà più dalla cucina. Questo è il nostro obiettivo, di portare anche un po' di divertimento in cucina. Va bene, grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Restiamo in qualche modo in cucina, ma anche di più. Io qui ho la sensazione chiara che abbiamo a che fare con qualcosa di decisamente esplosivo. È parte da una startup, Wenco, che lavora qui nella provincia di Milano. Ho intervistato Davide Stefano Guerra, che è un ricercatore della Wenco, e la mia intervista inizia con questa domanda, con questa considerazione. Sentite. Ho qui davanti a me un bel salsicciotto su dell'alluminio, che poco fa era caldo, ma cos'è? Uno di quegli allumini normali in cui confezioniamo i cibi? Io so che non è così. Esatto, questo alluminio su cui è stata cucinata questa salsiccia è un alluminio speciale prodotto sotto brevetto della tecnologia Ellum. La tecnologia Ellum è una tecnologia proprietaria esclusiva di Wenco, società italiana, che ha investito molto in ricerca per trasformare il comune alluminio in un nuovo metallo, un metallo composito a tutti gli effetti, perché questo ora è un alluminio di fatto nanostrutturato, in cui mediante tecnologie di idrogaggio sono state inserite in posizioni opportune e in concentrazioni opportune delle sostanze differenti dall'alluminio. Questa tecnologia di modifica del materiale gli ha conferito delle proprietà straordinarie, pur aggiungendo quantità veramente microscopiche di materia diversa rispetto al 99% di alluminio in cui viene annegata. Queste piccolissime aggiunte ne hanno modificato in modo drastico le proprietà di funzionamento. Ad esempio, una su tutte, che forse la più interessante, l'alluminio è un materiale che tendenzialmente lavora male nei campi di applicazioni tipici dell'induzione. Ad esempio, pensiamo alla cottura su piastra induzione. Non si usano mai padelle in alluminio, che d'altra parte sono invece la prima scelta di tutti i migliori cuochi del mondo. Questa tecnologia permette finalmente anche a chi vuole utilizzare pentole in alluminio di lavorare su piani induzione. Questo ha aperto tutto un nuovo settore, perché se possiamo rendere l'alluminio capace di trasformare in maniera molto molto efficiente i campi elettromagnetici in calore, calore utile, le applicazioni diventano limitate solo dalla fantasia degli sviluppatori. Io lo ridico, andate a vedere il video, lì vedrete che come accendiamo e mettiamo il salsicciotto sul foglio di alluminio, quasi immediatamente si vede già del fumo, quindi sta cuocendo. Dopodiché spegniamo, io metto la mano sull'alluminio ed è freddo. E qua c'è un guadagno, un risparmio di energia intensissimo, fortissimo. Sì, pensiamo ad esempio alla classica dicitura della preparazione di tutte le torte: preriscaldare il forno a 200 gradi. Ci vuole almeno un quarto d'ora solo per questa operazione, del tutto inutile, puro tempo perso. Perché invece non applicare una soluzione in cui, schiacciando un pulsante, in un secondo i 200 gradi sono raggiunti? La tecnologia Helium lo permette, non è fantascienza, non abbiamo violato nessun principio della fisica. Semplicemente abbiamo trovato un modo nuovo e molto efficiente di sfruttare qualcosa a cui speriamo di essere stati i primi ad arrivare. Non sarebbe andato male. Applicazioni nei campi più diversi. Funziona anche, mi dite, per basse temperature, e quindi potrebbe avere delle applicazioni in campo biomedico, no? Ad esempio, la tecnologia Helium si qualifica per alcune sue proprietà. Tra queste, il fatto di essere realizzabile mediante film sottilissimi. Parliamo di fogli d'alluminio dello spessore di pochi micrometri, molto molto simili ai classici fogli commerciali d'alluminio per uso alimentare che si acquistano ovunque. Il fatto che sia così sottile lo rende anche estremamente flessibile. Il fatto che sia flessibile lo rende modellabile. Da qui la possibilità di applicarlo in ogni geometria, in ogni forma, rigida o variabile, a discrezione dell'utente e dello sviluppatore. Non c'è veramente limite, non solo non c'è limite alle forme, non c'è limite alle temperature. Possiamo lavorare in un range che va dai 20 ai 200 gradi per le tipiche temperature di cottura. Oggi va tanto di moda la cottura cosiddetta a freddo, a 50 gradi, benissimo, con la tecnologia Helium è possibile. Vogliamo dorare una bistecca a 150 gradi per poco tempo per non trasformarla in un crostone di carbone? Lo si può fare senza nessun problema. Vogliamo passare da 20 a 150 gradi? Serve un secondo e mezzo di tempo. Vogliamo passare da 150 a 20 gradi? Un secondo e mezzo di tempo, e l'abbiamo fatto. Diciamo però che voi state iniziando adesso a muovermi in tutte le operazioni pre-mercato, e quindi le applicazioni le vedremo in un tempo probabilmente non lungo, ma insomma sta per arrivare. Certamente, il rovescio della medaglia di una tecnologia così nuova e che di fatto non va a vendere fumo a nessuno, perché non abbiamo creato nessuna nuova soluzione che violi alcun principio universale, è che ha così tante applicazioni che noi stessi non riusciamo a immaginarle, tant'è che nei mesi passati le migliori soluzioni, le migliori idee ci sono venute da coloro a cui abbiamo proposto la conoscenza dell'esistenza di questa tecnologia. Per fare un esempio banalissimo in campo industriale che nulla ha a che fare con la cottura delle salsicce, l'idea di decongelare le pale di un elicottero con questo strumento, senza di fatto aggiungere peso all'elicottero stesso, che deve essere il più leggero possibile per poter decollare, e senza andare a inficiare in nessun modo il profilo geometrico delle pali stesse, perché aggiungendo 3 o 4 micrometri di spessore non cambia assolutamente niente. Auguri e buon lavoro. Grazie mille. Anche su questa prodigiosa carta d'alluminio c'è un video, E quindi, insomma, vi invitiamo a visitarlo, perché ci sono tutte le integrazioni di questa puntata. Lo trovate su www.radio24.it nella sezione dei blog. Il nostro tempo è terminato, Federico. Buona settimana a tutti e a tutte. Ciao.